2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo in onda, questo è 2024, la puntata del 26 aprile 2014. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, nella nostra pagina Facebook potete partecipare e animare la discussione con domande, considerazioni, insomma qualsiasi cosa rientri tra i temi della nostra trasmissione, oppure potete anche interagire con noi seguendoci su Twitter, cercate 2024 oppure il mio account Enrico Pagliarini, quindi chiocciolina e underscore Pagliarini. Oggi parleremo di droni, parleremo anche di neutralità della rete. Ci sono alcune notizie, c'è una notizia in modo particolare che arriva negli Stati Uniti che riporta all'attualità il tema della neutralità della rete, fondamentale per la crescita e lo sviluppo della rete internet. Iniziamo con le nostre Digital News. Digital News. Lo spionaggio digitale è in costante crescita ed è triplicato in un anno, secondo il Data Breach Investigation Report di Verizon. La Cina è ancora il paese con la maggiore attività di cyberspionaggio al mondo e gli Stati Uniti sono il principale target di queste attività. A proposito di sicurezza, 12 aziende della Silicon Valley, tra le più note, hanno deciso di creare un fondo che vale 3,6 milioni di dollari, ognuna pagherà 300 mila dollari per i prossimi tre anni, per sviluppare sistemi di sicurezza rafforzando non solo il protocollo OpenSSL, quello che è stato bucato, di cui abbiamo parlato recentemente a 2024, ma tutti gli altri sistemi di cifratura più utilizzati nel mondo. Ricorderete che avevamo detto che OpenSSL, che viene utilizzato da moltissime delle grandi aziende sulla rete internet per proteggere i dati, viene di fatto sviluppato, essendo un progetto open source, da quattro persone, comunque da un gruppo molto ristretto di persone. Con pochi soldi si sarebbe potuto forse evitare il problema che abbiamo commentato nelle ultime settimane. E quindi ben vengano questi 3,6 milioni che sono effettivamente pochi, ma forse sufficienti per garantire la sicurezza delle connessioni, della cifratura dei dati online. Digital News. Microsoft ha annunciato di avere completato l'acquisizione della divisione di telefonia mobile di Nokia, che è ora parte di Microsoft Devices Group, divisione guidata da Steven Hillop, che era fino a pochi giorni fa amministratore delegato appunto di Nokia. Questa divisione si occuperà degli smartphone Lumia, i telefoni marchiati Nokia, che continueranno ad esistere, e poi anche Xbox, Surface e tutti gli altri prodotti hardware di Microsoft. Digital News. Quindi non è vero che scompare il marchio Nokia, scompare la Nokia intesa come azienda che si occupava di telefonia mobile, che viene integrata all'interno della Microsoft. Esiste una Nokia che continua ad esistere in modo autonomo, ma si occupa di servizi come ad esempio quello delle mappe Here, e invece la Nokia dei telefonini viene integrata e scompare in effetti all'interno di Microsoft, ma i prodotti con marchio Nokia continuano ad esistere. Digital News. Parliamo ancora di Microsoft. Il nuovo Windows Phone, la versione 8.1, verrà pubblicata solo a fine maggio, inizi di giugno, ma la curiosità è tanta e la versione per gli sviluppatori è già stata scaricata 1 milione di volte, il che fa pensare che oltre agli sviluppatori ci sia una buona fetta di utenti cosiddetti normali, attratti dalla prova dell'aggiornamento in anteprima. Digital News. Facebook ha comprato Protogeo, una società finlandese di Helsinki che sviluppa Moves. È un'applicazione che permette di monitorare la propria attività sportiva creando un diario giornaliero di tutto l'esercizio fatto, spostamenti compresi. Digital News. A proposito di strumenti per misurare l'attività fisica, i cosiddetti Activity Tracker, se si guarda al mercato, questi sono forse gli unici prodotti della categoria wearable device, e quindi prodotti indossabili, gli unici ad avere successo, mentre gli orologi, finora gli smartwatch, non vendono molto. Vanno bene invece, secondo gli ultimi dati di mercato, tutti i braccialetti che monitorizzano la nostra attività fisica. Digital News. Questo è un mercato dove stanno arrivando nuovi prodotti e forse anche per questo motivo Nike, che per prima è entrata nel mondo della tecnologia applicata al fitness con alcuni strumenti indossabili, ha deciso di chiudere la divisione che sviluppava Fuel Band e Nike Plus. Ci sono altri numeri, altre considerazioni, altre notizie della settimana interessanti. Ad esempio, le trimestrali relative ai primi tre mesi dell'anno di quattro grandi aziende che operano su internet o producono terminali che servono per usare internet, ancora una volta, visti i dati che sono stati pubblicati, il settore tecnologico sorprende i mercati. Dati sostanzialmente positivi, poi bisognerebbe analizzarli nel dettaglio, ma non è questo lo scopo di 2024, analizzare nel dettaglio finanziario quello che fanno le aziende, però alcuni numeri almeno sono interessanti. Dicevo, i dati sono stati pubblicati da Amazon, Apple, Microsoft e Facebook. Da segnalare i risultati brillanti delle vendite di iPhone, nonostante molti altri concorrenti abbiano sfornato nuovi terminali, gli iPhone continuano ad andare molto bene, soprattutto grazie agli accordi che Apple ha fatto con China Mobile NTT Docomo, quindi un'azienda cinese che ha quasi 800 milioni di clienti. E anche NTT Docomo giapponese ha molti milioni di clienti. Comunque Apple nel trimestre ha venduto ben 44 milioni di iPhone, numeri in crescita e che confermano la buona salute del terminale. Sono stati invece registrati cali da 19 milioni e qualche migliaio fino a 16 milioni di iPad, quindi c'è stato un calo invece di vendite degli iPad. Ma ad essere interessanti sono anche i numeri di Facebook. Allora, gli utenti iscritti sono saliti, pensate, a 1.280 milioni. 802 milioni sono quelli attivi ogni giorno, quindi vengono calcolati gli utenti iscritti in generale, poi ci sono quelli che si collegano una volta al mese, una volta ogni due mesi, una volta alla settimana, ma pensate che tutti i giorni, quindi utenti piuttosto assidui, sono 802 milioni. Ma quello che è ancora più importante è il dato sugli utenti che si collegano da smartphone e tablet, sono 1 miliardo, e di questo miliardo 609 milioni sono attivi ogni giorno. Incredibile, eh? Il 59% dei ricavi arriva dal mobile, ricavi prevalentemente pubblicitari di Facebook che arrivano dalle attività su smartphone e tablet. E c'è ancora chi non ha capito l'importanza di un'applicazione, di servizi pensati per i terminali mobili, quindi per gli smartphone e anche per i tablet, ma soprattutto per gli smartphone. A proposito di questo, vi annuncio e ricordo che il Sole 24 Ore ha rinnovato la versione mobile del portale, il sole24ore.com, quindi una buona notizia per tutti i nostri ascoltatori che leggono le notizie sul sole24ore.com. Un'altra notizia arriva dal Brasile, è stata la settimana del Net Mondiale. Prima dei mondiali di calcio si fanno i mondiali della rete, potremmo chiamarli così. È stata la prima conferenza mondiale sul futuro della rete internet dopo il Datagate, che ha gettato, poi vedremo che cosa succederà, ma gettato le basi per una governance condivisa della rete internet, cosa di cui si parla da molti anni, e c'è chi vede tutto ciò molto positivamente, visto che gli stessi Stati Uniti hanno detto noi vogliamo una condivisione della governance su internet. Sapete che fino ad oggi gli Stati Uniti in modo particolare hanno alcuni poteri che sono sostanzialmente rappresentati dall'ICANN, che può ad esempio decidere la politica sui domini .com, .net, decine di altri domini internet. Questa conferenza di San Paolo è stata, per il momento si è parlato solo di principi, non si è entrato in nulla di concreto, comunque è stata fortemente voluta dalla presidente brasiliana Dilma Rousseff, che è stata tra l'altro vittima dello spionaggio elettronico della NSA, quindi si è un po' arrabbiata. Ha detto durante questa conferenza che è necessario globalizzare il processo decisionale della rete, tutti i paesi devono avere lo stesso peso nella governance di internet, nessuno deve averne più degli altri. Bisognerà poi vedere se tutto ciò sarà anche efficace per la governance della rete internet, perché quando ci sono troppi paesi poi va a finire come alle Nazioni Unite, che spesso le uniche decisioni che vengono prese sono le non decisioni, troppo diplomatiche per essere poi concrete. Tuttavia, alcuni principi sono stati posti e sono stati ribaditi, e Dilma Rousseff ha anche firmato sul palco di questo summit il Marco Civil, che è una sorta di costituzione del web che è stata approvata dal Parlamento brasiliano, che assicura la neutralità di internet e soprattutto garantisce il rispetto della privacy degli utenti brasiliani. Ma sulla neutralità della rete internet vogliamo spendere alcune parole, perché questo è un tema che è tornato di attualità. Negli Stati Uniti, in questi giorni, c'è chi è molto preoccupato dopo che la Federal Communications Commission, la FCC, che è sostanzialmente l'autorità di garanzia per le comunicazioni, un po' come l'AGCOM italiana, la FCC è quella americana, con poteri naturalmente diversi, ma sostanzialmente si occupa di legiferare e di regolare questo settore. Allora, la FCC ha annunciato che il 15 maggio porterà in votazione una proposta che intende lasciare spazio a possibili accordi fra operatori della rete, come quello da poco firmato da Netflix e Comcast. Allora, questo è solo un esempio. Netflix, probabilmente molti di voi lo conoscono, è un grande operatore che eroga film online negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti, ma quello è il mercato principale, e per far sì che i propri video arrivino in modo fluido e senza interruzioni agli abbonati, in questo caso di Comcast, ha deciso di pagare. Fino ad oggi sostanzialmente la rete internet si basa su una sorta di neutralità, per cui io erogo un contenuto e quel contenuto gli operatori di telecomunicazione lo devono portare a destinazione dall'utente. Quando io clicco per vedere un video, per leggere una pagina sulla rete internet, tutti questi contenuti sono, o dovrebbero, diciamo così, essere trattati allo stesso modo dagli operatori di telecomunicazioni. Negli ultimi tempi, visti alcuni contenuti particolarmente ingombranti, pesanti come il video, e vista la congestione che c'è sulla rete internet un po' in tutto il mondo, non solo in Italia, alcuni operatori di telecomunicazioni dicono: per far transitare meglio il tuo contenuto, se mi paghi ti posso trattare un po' meglio. Allora, questo tra Netflix e Comcast è solo l'ultimo caso di un mercato dove non c'è una regolamentazione specifica, quindi è tutto lasciato agli accordi tra gli operatori, ma dove la Federal Communication Commission ha provato a mettere alcuni paletti, almeno alcuni principi, che per ora sono stati bocciati dalla Corte Suprema. Allora, come dicevo, sono un po' i video che stanno crescendo in modo esponenziale, stanno un po' cambiando, scombussolando le dinamiche del mercato della rete internet, e quindi le società di telecomunicazioni, di fronte a questo traffico che cresce, vogliono monetizzare il trasporto e appunto dicono: se mi paghi ti tratto un po' meglio. Però c'è anche questo principio della neutralità da preservare, e c'è chi dice: se vince il principio che chi paga di più ha più banda per erogare i propri servizi, già oggi un pochettino è così, perché naturalmente se uno ha più risorse ci sono tutta una serie di tecnologie che si possono mettere in atto per far sì che i propri dati arrivino in modo più veloce. Tuttavia, se passasse questo principio, molti dicono le prossime start-up potrebbero non avere la forza per emergere. Ovviamente tutto ciò sarebbe mitigato da una grande concorrenza sul mercato, ma non è detto che la concorrenza ci sia. Comunque, per fare un po' il punto su questa situazione, tra poco sarà con noi Joey Marino, che è il presidente del Mix. Questo è 2024, riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra poco parleremo di droni a 2024, questo è un argomento di grande attualità in questi mesi, ma ne parleremo anche perché il 30 aprile entrerà in vigore il nuovo regolamento dell'ENAC, che cerca di mettere un po' d'ordine in un mercato che effettivamente rischia di essere disordinato, perché le macchine continuano a diminuire di prezzo, ci sono tantissimi operatori, si possono comprare droni da tutto il mondo, ma anche in questo settore ci sono operatori seri e operatori poco seri. Sicuramente un regolamento serve per far crescere in modo ordinato il mercato. Ne parleremo tra poco. Adesso parliamo di neutralità della rete. Dicevamo poco fa che negli Stati Uniti si sta dibattendo, c'è chi considera la proposta della Federal Communication Commission, che lascerebbe spazio a possibili accordi fra operatori privati affinché uno paghi per avere un po' più di banda e quindi per erogare un servizio migliore ai consumatori, ma molti dicono tutto ciò metterebbe a rischio quello che è considerato un principio sacro della rete internet, cioè la neutralità della rete. Ne parliamo con Joey Marino, che è il presidente del MIX. Il MIX è l'Internet Exchange di Milano, il punto di interscambio della rete internet più importante in Italia. Joey, bentornato a 2024. Buongiorno. Partiamo dalle preoccupazioni. Dobbiamo preoccuparci o la preoccupazione deve essere molto limitata, visto che stiamo parlando di cose che accadono negli Stati Uniti, di un dibattito forse diverso rispetto all'Europa? Vabbè, internet è globale, quindi le preoccupazioni viaggiano alla velocità della luce, perché quello che succede in uno dei paesi più avanzati sicuramente avrà riflessi in Europa. Teniamo conto che gli operatori che più hanno fatto azioni di lobby per cambiare le regole sulla network neutrality, quindi per togliere di mezzo la network neutrality, sono principalmente i telco europei. Anche perché sono quelli che lamentano di più una pressione sui loro ricavi e sulla loro capacità di investire rispetto agli americani, che tutto sommato non se la passano malissimo. Il fatto che la FCC faccia questa apertura significa che, diciamo, come effetto domino, qualcosa del genere può succedere anche in Europa. C'è da dire che in America il mercato dell'accesso, cioè quindi quello che porta l'internet in casa della gente, è abbastanza ristretto. Ci sono pochissimi grandi operatori e soprattutto in moltissime parti degli Stati Uniti non c'è praticamente possibilità di scelta per il consumatore, che ha a casa sua soltanto un operatore che gli porta ADSL o gli porta l'internet via cavo. E quindi questo vuol dire che qualunque scelta, cioè qualunque libertà che viene data all'operatore di manipolare l'offerta che fa ai suoi clienti o di costringere dall'altra parte le Google del mondo a pagare per portare i contenuti ai suoi clienti, diciamo, non può essere ostacolato, non può essere vissuto in termini di mercato libero dall'utente finale, il quale dice: io quello ho e non posso scegliere un altro che fa una politica diversa. In Europa questo è leggermente meglio, perché ci sono più operatori in concorrenza, però è sempre un discorso molto difficile per due motivi. Uno, perché il cliente finale si accorge poco di quello che gli viene propinato, e dall'altro perché i costi di migrazione da un operatore all'altro sono sempre alti e qualche volta anche nascosti, quindi che poi uno scopre soltanto nel momento in cui decide di cambiare. Sì, quello della concorrenza è un tema importante ed è legato a quello della neutralità della rete, quindi mi sembra di capire che un pochettino dobbiamo preoccuparci o comunque discuterne anche pubblicamente più di quello che accade in questi periodi o comunque negli ultimi anni. Perché dobbiamo preoccuparci o soprattutto quale potrebbe essere il rischio per io consumatore finale che navigo su internet, laddove la regolamentazione potrebbe permettere degli accordi particolari tra l'operatore di telecomunicazioni che mi porta la rete internet a casa e il provider di contenuti che produce film, che produce altro tipo di contenuti, che ne so, anche Facebook o Google che producono altri tipi di contenuti? Perché mi dovrei occupare? Cioè, cosa potrebbe succedere? Dunque, non è semplicissimo da spiegare come può succedere qualcosa di preoccupante. Diciamo, la posizione dei puri e duri che dice neutralità della rete, neutralità della rete, è una precondizione a priori, così, che dà garanzie di massima apertura della rete. Quando si dice internet è stato questo grande successo mondiale, da ogni punto di vista, sia in termini di penetrazione, sia in termini di generazione di opportunità, di nuovi business, la neutralità della rete è uno degli ingredienti che ha reso possibile questo, perché è una specie di grande livella, mette tutti sullo stesso piano, che sia il piccolo operatore o il piccolo produttore di contenuti o di idee innovative e così via, ha possibilità di raggiungere tutti alla pari del grandissimo. Se questo in qualche modo viene alterato o si dà la possibilità di cambiarlo, la paura di molti è che si inneschi un meccanismo progressivo, non istantaneo, non è che dalla sera alla mattina cambia tutto, ma progressivamente i grossi hanno un vantaggio competitivo rispetto ai nuovi o rispetto ai piccoli, e quindi nel giro di qualche anno si può arrivare a un avvitamento in cui il mercato è molto polarizzato, ci sono pochissimi grossi operatori di accesso, quelli che danno la connettività in casa, e ci sono pochissimi grossi operatori di contenuti o di, che ne so, e-commerce e così via. Quindi si andrebbe verso un oligopolio, una chiusura del mercato che alla fin fine finisce poi per, diciamo, andare contro gli interessi del consumatore, di chi vuole avere possibilità di scelta. Attualmente, cioè guardando il dibattito ad oggi e soprattutto guardando anche le spinte degli operatori di telecomunicazioni in termini di lobby in Europa, è una preoccupazione ravvicinata, o prima che possa succedere una cosa del genere in Europa potranno passare ancora molti anni? Diciamo che siamo appena reduci da una manovra articolata di lobby sul Parlamento europeo per far approvare, nell'ambito di quella che era la direttiva Connected Continent, quella della CROSS, anche qualche cosa che fosse un grimaldello sulla net neutrality. Non è passato, ci sono stati, diciamo, delle contro manovre di lobby per sensibilizzare i parlamentari del Parlamento che sta chiudendo adesso, che sta finendo, su questi temi, e la cosa per un pelo, stiamo parlando veramente di pochissimi passi, non è passato. C'è stata anche una convergenza di interessi, sì, diversi anche sul roaming e su altre cose, però la net neutrality era uno dei punti, diciamo, di scontro all'interno del Parlamento. Però tra un mese si rinnova il Parlamento, quindi sicuramente quello che la CROSS non è riuscita a far passare adesso verrà sicuramente rimesso in agenda, perché ci sono comunque dei problemi da risolvere sul fatto che l'Europa non è un mercato unico delle telecomunicazioni. Però direi, se qualcheduno ci infila dentro questo cavallo di Troia anche il tema della eliminazione della net neutrality, nel giro di, che ne so, 6 mesi siamo da capo a parlarne in termini molto, molto concreti e molto urgenti. Sì. Ti faccio un'ultima domanda, tornando ancora proprio sul concreto di quello che potrebbe succedere a casa degli utenti. In una prospettiva di innalzamento delle capacità delle reti, perché è vero che soprattutto noi in Italia stiamo andando lentamente, però gradualmente la capacità di connettività della rete aumenta, nei prossimi anni ci sarà comunque un po' più di fibra in giro per l'Italia, è che in una prospettiva del genere, se una società come Facebook pagasse Telecom Italia per avere priorità d'accesso, quindi i consumatori possano su una certa rete essere più veloci nel caricare i propri post, le proprie fotografie, eccetera, eccetera. Ecco, visto che la capacità della rete aumenterà, non dovremmo preoccuparci un po' meno, visto che ci sarà comunque spazio anche per gli altri, perché a volte i sostenitori della net neutrality dicono: ma se io do priorità all'uno, poi il resto del traffico potrebbe subire dei rallentamenti, potrei non riuscire ad andare in alcune pagine, eccetera, eccetera. Un po' come facendo l'esempio dell'autostrada, se io, chiaro che è un puro esempio così di scuola, ma se io a Società Autostrada concedessi due corsie ad una società di trasporti che mi paga, tutti gli altri dovrebbero accontentarsi di un'unica corsia e dividersi quella. Che cosa dici? Qual è il tuo commento? Allora, io qui, su questo personalmente ho una posizione abbastanza diciamo flessibile, cioè non sono un integralista della neutrality a priori. È sicuramente l'approccio più facile e garantista, però se ci fossero o tutte le volte che ci sono delle condizioni di mercato vero, non vedrei grossi problemi sul fatto che ci siano forme di preferenza o di servizi premium affiancati ai servizi base. L'esempio che facevi tu su Facebook invece ha una componente preoccupante, perché appunto considerando che il consumatore non è esperto, non è competenza di questo, e lo vediamo sempre di più allargandosi il mercato, la gente confonde il web con internet, confonde Google con l'accesso ai contenuti in genere, oppure usa Facebook al posto della posta elettronica per comunicare in ogni dove. Quindi il pericolo è che un domani vengano costruite delle offerte ad hoc che dicono: io ti do Facebook di buona qualità e non ti do internet, o te lo do in maniera molto molto limitata, ristretta e così via, rendendo quindi il consumatore asservito a una logica che è: io sono il fornitore di accesso, decido io che contenuti puoi vedere, faccio degli accordi per farmi pagare da chi vuole portarti i contenuti e tutto il resto sparisce o viene messo in secondo piano. Questo è il vero pericolo, perché poi dopodiché uno mangia quello che ha nel piatto, e se gli viene dato soltanto Facebook e YouTube, quello vedrà. Quindi uno schema, diciamo, simile televisivo, addirittura simile telecomunicazione anni 70. Molto bene. Quindi chiudendo la possibilità a tutto quello che è il nuovo, tutto quello che oggi non possiamo nemmeno immaginare che domani potrebbe nascere su un internet aperto. Sì, esatto. Beh, io ho detto molto bene, verrebbe da dire molto male rispetto a questa prospettiva. Comunque, grazie a Gioia Marino per essere stato con noi, per averci chiarito alcuni punti che sono molto, estremamente importanti. A presto e buon lavoro. Arrivederci. Un tema sicuramente interessante, può sembrare difficile, ma poi in realtà avete capito che tutto ciò riguarda poi la navigazione di tutti i giorni. Vorrei fare alcune aggiunte, alcuni commenti, anche spiegando magari a chi non ha proprio chiaro la differenza tra il web e internet. Ne parliamo tra poco, tra poco parleremo anche di droni. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. 2024. Ed eccoci di nuovo, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Paglierini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana, grazie anche a Gianmarco Ferronato che oggi si occupa della parte tecnica. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile poco dopo il termine all'interno del servizio podcast di Radio 24. Allora, poco fa Gioi Marino del Mix di Milano ha detto c'è ancora chi non sa la differenza tra il web ed internet, e in effetti sicuramente ci sono ancora molte persone. Internet è l'infrastruttura su cui girano tante informazioni, il web è una delle cose che gira su internet, il web è la modalità con cui noi visualizziamo le pagine, come si dice, web, dei siti web. Poi su internet girano tantissime altre cose, ad esempio quando facciamo una telefonata con Skype o utilizziamo Skype stiamo utilizzando internet, ma non stiamo utilizzando il web, giusto per fare un esempio. Insomma, questa è la differenza fondamentale. Poi se volete approfondire su Wikipedia probabilmente trovate una spiegazione molto più dettagliata e quindi potete sicuramente capirne di più. Sempre Joey Marino ha fatto riferimento al Parlamento europeo e un invito che vi facciamo, visto che appunto fra un mese ci sono le elezioni, è quello di cercare il più possibile di conoscere chi potreste votare nella vostra zona. So che è una cosa che normalmente non si fa, ma vista l'importanza, perché il Parlamento europeo è oramai più importante del Parlamento italiano, anche se molti non lo hanno compreso, perché molte cose vengono decise a livello europeo, poi devono essere recepite a livello italiano, beh, è molto importante e sarebbe una buona idea magari interrogare questo candidato sull'importanza della rete internet nelle politiche europee, capire se questa persona ne ha compreso l'importanza e magari ci capisce anche qualche cosa oppure no. E questo potrebbe anche essere un metodo di giudizio per il vostro voto. Allora, per ora, se guardiamo alla situazione italiana della politica, non c'è da essere tanto felici. Il governo finora, molti lo ritengono bocciato in materie digitali, nonostante si fosse presentato come un governo giovane, attento alla rete internet. Allora, facciamo due esempi per spiegare e giustificare appunto quelli che dicono che il governo è bocciato in materie digitali. Allora, primo esempio. Sono scaduti questa settimana i 60 giorni di tempo che erano stati dati dal provvedimento Destinazione Italia al Ministero dello Sviluppo Economico e quello dei trasporti, delle infrastrutture dei trasporti, per aggiornare un regolamento, il regolamento Scavi dello scorso ottobre, e quindi abilitare a tutti gli effetti le nuove tecniche di scavo come le mini trincee poco invasive, un sistema molto veloce per stendere cavi. Traducendo, non ci sono ancora norme che possano far sviluppare questo mercato, norme attese da molti mesi per accelerare la posa di fibra ottica. È vero che un incontro è fissato al Ministero dello Sviluppo Economico il 6 maggio, ma finora non si è visto nulla. Allora, altro tema sul quale il governo è silenzioso è l'aggiornamento delle tariffe del compenso per copia privata. Sapete che quando comprate uno strumento come un PC, un hard disk, un tablet o uno smartphone, pagate un compenso che va a finire nelle casse della SIAE, che poi le ridistribuisce agli autori, agli editori. Uno si domanda, ma perché? Perché si presume che uno faccia una copia. Però, di fronte al declino di questa modalità, cioè di una copia magari da un CD comprato legalmente, perché sono sempre meno le persone che copiano appunto, che ne so, un CD da un PC, su un PC o su uno smartphone, ma invece cominciano a comprare sempre di più canzoni online o si abbonano ai servizi streaming, e lì c'è già il diritto a poter utilizzare quella canzone o quel contenuto su più strumenti, su più apparecchi. Insomma, di fronte a tutto ciò, pare che il ministro della cultura Franceschini voglia adeguare al rialzo queste tariffe, perché si possono adeguare anche al ribasso. Ma evidentemente questo è il suo parere. Noi lo ribadiamo, abbiamo chiesto più volte un'intervista a Franceschini per spiegarci qual era la sua posizione, per il momento non abbiamo avuto una risposta positiva. Allora, parliamo di una ipotesi, mai smentita, di 200 milioni di euro che i consumatori dovranno pagare, perché questo prelievo potrebbe essere incrementato, ad esempio, ma è solo un esempio, sugli smartphone del 500%. Oltre che tecnologicamente non giustificato, perché oggi ci sono altri sistemi per tracciare chi fa copia privata, è forse inopportuno, dicono molti, e sicuramente io sono d'accordo con quelli, è forse inopportuno aumentare un prelievo che viene vissuto da molti come una tassa. Tecnicamente non stiamo parlando di una tassa, quindi è scorretto dirlo, ma poi molti titoli sui siti web e molti titoli dei giornali fanno rima con tassa, utilizzano il termine tassa, e quindi poi viene utilizzato anche questo termine impropriamente, ma insomma il percepito di molti utenti è quello. Adesso cambiamo argomento, parliamo di droni. I droni sono degli strumenti che possono essere ad ala fissa, quindi dei piccoli aeroplani, oppure ad ala rotante, quindi dei piccoli elicotteri, che vengono sempre più utilizzati per fare un sacco di cose. Il 30 aprile entrerà in vigore un nuovo regolamento che cerca di mettere un po' d'ordine in questo mercato che sta crescendo molto molto velocemente. Abbiamo parlato di regole, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, con Carmine Cifaldi, che è il direttore della regolazione navigabilità dell'ENAC. Che cosa sono i droni e quali sono le definizioni che vengono utilizzate? Droni è una terminologia di derivazione militare. Sì. È una terminologia che però ha sminuito il valore di questi mezzi, e molti li hanno considerati quasi dei giocattoli volanti. In realtà noi li chiamiamo aeromobili, a pilotaggio remoto, perché il pilota non è a bordo, ma sono aeromobili. Tuttavia abbiamo voluto con questo regolamento fare chiarezza cosa intendiamo per aeromobili e cosa non intendiamo per aeromobili. Prima di tutto il regolamento nasce da un'esigenza che viene dal codice della navigazione. Il codice della navigazione nel 2006 già definiva gli aeromobili a pilotaggio remoto aeromobili. Quindi a tutti i sensi del codice, con tutte le prerogative e anche tutti i doveri che chi utilizza questi mezzi deve rispettare. E demandava all'ENAC di scrivere un regolamento per poter chiarire le caratteristiche di questi mezzi e certo, il loro uso. Questo per evitare che in cielo cominci a esserci una confusione di cose che volano avanti e indietro. Quando parliamo di, ecco, a proposito di definizione, noi siamo, non so quanto anche i nostri ascoltatori, abituati, o comunque sicuramente qualcuno avrà visto questi mezzi che a volte, appunto, come lei dice, sono giocattoli, ma poi crescendo nella scala del valore, nella scala del peso, della complicazione tecnologica, sono anche macchine che vengono utilizzate a livello professionale. Quindi voi come li avete definiti? Il primo punto, come lei correttamente ha fatto osservare, è cosa si intende per aeromobile e cosa no. Noi il primo punto del regolamento fa una distinzione. Questi mezzi tutti sono a pilotaggio remoto, perché non c'è pilota a bordo, però alcuni si chiamano aeromodelli e ai sensi del codice non li consideriamo aeromobili, gli altri sono tutti aeromobili. Aeromodello è ogni mezzo che utilizzo per attività di ricreazione, quindi ludica e sportiva. Non posso farci altro. Attività professionale, quindi attività, meglio dire, con contenuto economico, perché lo posso fare come attività commerciale, quindi per conto terzo, oppure anche per conto mio. Per chiarire, se io riprendo casa mia perché mi voglio fare delle foto e incorniciarmele, quella è un'attività ludica. Se io voglio riprendere casa mia perché poi voglio utilizzarlo come marketing, quello è attività professionale. È attività professionale. E la definizione entra anche nel tecnico. Io ricordo che lo scorso anno una delle, tra le caratteristiche per definire questi mezzi c'era il peso. Si diceva fino a tot chili, non è così? No, il peso è stato eliminato da qualsiasi definizione. Noi utilizziamo una definizione che è una definizione internazionale dell'ICAO, che non è facile da gestire, capisco, perché non è facile per chi lo vede utilizzare capire se è utilizzato per uso ludico o uso professionale. Cioè, magari mi compro un drone da qualche migliaia, ammettiamo che io abbia, come dire, questa passione e voglia comprare una macchina grande, complicata, che quindi abbia un'autonomia di volo, possa portare, che ne so, una fotocamera molto pesante di, che ne so, 30 kg. Se la faccio per uso ludico, non rientro nella regolazione? No, rientra nella parte della regolazione che è dedicata agli aeromodelli. Gli aeromodelli devono essere utilizzati sotto la responsabilità dell'aeromodellista, che non è un pilota. Quindi cosa vuol dire? Che certi aeromodelli di pesi inferiori, normalmente ai 25 kg, che sono, però normalmente sono aeromodelli di 2-3 kg, quelli che vediamo in commercio, possono essere utilizzati in spazi aerei non controllati, quindi al di sotto di una certa quota, normalmente 50 metri, oppure se c'è il patentino anche 150, ma in aree non popolate. Vuol dire, io devo operare in campagna, esatto, dove non sono fonte di rischio, oppure in aree ad hoc per loro. Ci sono delle aree regolamentate ad hoc per gli aeromodellisti, però è un'attività ben definita che noi escludiamo dal codice della navigazione, viene gestita dall'Aeroclub d'Italia e non deve essere confusa con l'attività professionale. Chiarissimo. Giusto per rispondere anche agli ascoltatori che magari hanno comprato o vogliono comprare un piccolo drone, in teoria, stando al regolamento, non potrei utilizzarlo nemmeno al parco la domenica pomeriggio. Anche un piccolo. Se ci sono possibilità di rischio, non lo posso utilizzare. Se ci sono le persone. Quindi certo, non posso utilizzarlo. Sì. Devo andare in spazi ad hoc. Sì. O spazi già regolamentati, oppure in spazi, vado in una spiaggia, vado in campagna. Questo per dire che stiamo parlando di attività che possono anche essere pericolose, quindi prima di comprare un drone, visto che oggi si possono comprare su internet delle macchine straordinarie che possono fare moltissime cose a poche centinaia di euro, un migliaio di euro, prima di fare qualsiasi operazione, informatevi bene su quello che è possibile fare e soprattutto seguite questa semplice regola: laddove ci sono persone, è bene, oltre che bene, è obbligatorio non non volare. Poi per gli operatori professionali ci sono sostanzialmente questo regolamento che entrerà in vigore il 30 aprile, ci sono sostanzialmente due grandi aree all'interno dei quali gli operatori professionali si potranno muovere. Aree cosiddette non critiche, quindi che ne so, se uno fa una ripresa aerea con un drone a quattro motori, a quattro eliche su un bosco, beh, quella è un'area sicuramente non critica. E poi ci sono, e in quel caso basta un'autocertificazione e l'operatore potrà svolgere le proprie attività. Poi ci sono invece le aree cosiddette critiche, o perché sono vicine agli aeroporti, oppure perché sono in siti particolarmente delicati, siti industriali, oppure pensate ad una piazza che è piena di persone. Far girare un drone su quella piazza può costituire un pericolo. Allora, in quel caso deve essere chiesta un'autorizzazione. Poi, naturalmente, il regolamento è pubblicato sul sito di ENAC e gli operatori ne sono a conoscenza e sicuramente potete documentarvi. Un altro aspetto interessante è che queste macchine devono essere assicurate. Sì, se parliamo di aeromobili, esatto. Perché il codice di navigazione dice che tutti gli aeromobili devono essere assicurati, quindi anche loro devono essere assicurati, noi l'abbiamo ribadito nel nostro regolamento, e c'è un problema che è un problema per le assicurazioni che non sono pronte perché prima c'era un paradigma molto semplice ma funzionava: peso in proporzione al premio da pagare, perché si immaginava più era grosso, più era pesante, più il danno poteva fare, che un 380 che porta 500-800 sì, persone, sì, rispetto a un paperozzo, diciamo così, sì, volgarmente, sì. È chiaro che, e quindi c'era una paradigma. Invece il paradigma oggi non è così immediato, perché anche un mezzo piccolo può colpire una persona e può anche causare grandi lesioni e può arrivare fino alla morte, perché diciamo, purtroppo, volando in mezzo a una manifestazione, il rischio c'è. È certo. Anche se sono valori di energia bassi, però dipende come colpisce il corpo umano, dipende dalle condizioni. È evidente. Quindi è tutto. Infatti, durante un'audizione che abbiamo avuto alla Commissione europea, abbiamo detto che, almeno questa è la mia posizione, ma penso, ho visto anche della Commissione, bisogna un po' rivedere il regolamento europeo, passare da un concetto di peso a un concetto di rischio. A proposito di regolamentazione europea, uno potrebbe domandarsi perché non esiste una regolamentazione europea unica per i droni. Beh, perché sotto i 150 kg la regolamentazione di queste macchine è responsabilità nazionale. Ci sono lavori per armonizzare le regole, ma quindi se parliamo di aeroplani esiste una regolamentazione a livello continentale europeo, invece in questo caso ogni Stato ha un proprio regolamento, quelli che ce l'hanno, perché non tutti gli Stati europei hanno un regolamento e noi ce lo abbiamo. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Stiamo parlando di droni a 2024, stiamo parlando di mezzi che vengono definiti a pilotaggio remoto, perché il pilota deve esistere, ha una console di telecomando che pilota a distanza questi mezzi, che sono sempre più, possono anche essere ad ala fissa, quindi dei piccoli aeroplani, ma sono sempre più spesso degli elicotteri a quattro rotori, sei rotori, otto rotori. Esistono anche dei sistemi automatici per far sì che il drone esegua dei percorsi, ma il pilota deve sempre vedere questi velivoli, perché per ragioni di sicurezza poi deve intervenire laddove ci fosse necessità. Questi mezzi, secondo il regolamento dell'ENAC che entrerà in vigore il 30 di aprile, saranno identificati non in modo automatico, nel senso che non saranno tracciati via radar, ma avranno una targhetta così come il motorino, e quindi se uno dovesse combinare qualcosa di non regolare può essere identificato, o laddove non ci sia l'identificazione sicuramente scatterà una sanzione. Bene, al di là del regolamento, vogliamo anche capire quali sono gli usi che oggi, al di là delle riprese, che forse è la cosa più banale, molto più popolare, che tipo di uso viene fatto di questi mezzi? Beh, oramai sono moltissime le aziende, si parla di alcune centinaia, c'è chi dice che ci siano 400 operatori in Italia che utilizzano in modo professionale droni per fare tante cose. Ne abbiamo parlato con Piero Refolo, che è l'amministratore delegato, uno dei fondatori di Aermatica, che è una società italiana, una società che da 6 anni lavora in questo ambito. Sono tutti molti ingegneri che arrivano dal settore aerospaziale. Il loro approccio è estremamente serio e professionale, di alto livello. Costruiscono una macchina a 4 rotori, a 4 eliche di derivazione aeronautica, perché in questo mercato, molto probabilmente nel futuro, anche per via di regolamentazioni sempre più stringenti in tutto il mondo, si affermeranno macchine e professionisti di alto livello. Ci sono molti operatori che hanno invaso il mercato negli ultimi tempi, che hanno derivato le loro macchine da aeromodelli, quindi sostanzialmente hanno evoluto dei giocattoli. Molto probabilmente, e io penso che questa sia l'evoluzione del mercato, saranno sempre più richieste macchine professionali e affidabili. Con Piero Refolo abbiamo parlato anche delle attività che già oggi vengono fatte con i droni. Tutte le volte in cui può essere utile avere un oggetto volante che trasporta dei sensori, e questi sensori possono essere utilizzati per fare delle foto, fare dei video, acquisire dei dati di varia natura, in tutte queste occasioni può essere utile l'utilizzo di un drone, okay, di un aeromobile pilotaggio remoto. Fammi 2 o 3 esempi. Gli utilizzi, diciamo, più semplici, quelli, come dire, più comuni, possono andare dalla possibilità di fare delle foto, dei video dall'alto, dall'utilizzo, diciamo, più banale, che è particolarmente in voga in questo periodo, che è quello degli sposi che richiedono il video, le foto nel loro matrimonio. Cioè, ci sono già i droni che fanno le foto e i video dei matrimoni. C'è già un mercato anche piuttosto fiorente di questo tipo, ad utilizzi un po' più, diciamo, strutturati, un po' più complessi, tipo, un po' più professionali. Tipo, fammi 2 o 3 esempi. Tipo, per esempio, l'utilizzi a scopi diciamo di protezione civile, laddove, diciamo, possa essere utile avere sistemi di questo tipo che sorvolano delle aree di giorno o di notte per eventualmente, diciamo, tipo c'è una frana, mando il drone a vedere la frana per bene, per esempio. Ok. Oppure terremoto, è crollata una casa, mando il drone in mezzo alla casa, in mezzo alle macerie, per rendermi conto, che ne so, se c'è qualcuno con un braccio fuori, allora lo vado a recuperare. Sì, diciamo, ci sono sia degli utilizzi per la gestione delle emergenze, sia degli utilizzi aventi lo scopo, diciamo, di predire eventualmente l'insorgere di catastrofe, insorgere in generale, diciamo, di eventi, controllare gli eventi. Sì. Una frana, diciamo, ci possono essere, per esempio, degli elementi che dicono che sta per succedere, e degli elementi, diciamo, che permettono di riconoscere la frana. Non è detto, diciamo, che la frana avvenga esattamente da qui a qualche settimana. Vabbè, però la si monitora con uno strumento di questo tipo, diciamo, la si controlla, sì, e quindi si prendono le necessarie gli accorgimenti, diciamo, di conseguenza. Okay. Oppure si possono pensare anche a degli altri utilizzi, che possono andare, per esempio, dalla rilevazione di sversamenti abusivi nei laghi, fiumi, piuttosto che la rilevazione di sostanze particolarmente inquinanti all'interno di discariche, piuttosto che la rilevazione di tetti di edificio, al fine di monitorare, per esempio, la dispersione energetica degli edifici, o monitorare, per esempio, la presenza di coperture in amianto, comunque con sostanze, con demoralità, diciamo, non lecite. Quello dei droni è un mercato in fortissima crescita, sicuramente ci saranno posti di lavoro, non pensiamo a decine di migliaia, ma sicuramente è un settore in forte evoluzione. E a proposito degli utilizzi che si possono fare con queste macchine, anche in questo caso vale molto la fantasia, ci si possono inventare tantissime attività. certo siamo ancora agli inizi, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista regolamentare. Stiamo parlando del primo regolamento, quindi il mercato deve ancora trovare una propria dinamica e una propria forma, ma è un settore estremamente interessante. Siamo anche lontani da alcune evoluzioni che sono state disegnate o in libri o in film o da alcuni operatori che l'hanno fatto prevalentemente per farsi pubblicità, cioè da droni che in modo completamente automatico partono da un luogo e arrivano ad un altro luogo, magari per consegnare un pacco, magari per fare un'altra attività, oppure che sorvolano la città per controllare il traffico, sorvolano la città e laddove vedono qualche cosa che non va intervengono facendo una multa, riprendendo una serie di cose che poi vengono riportate alla polizia. Beh, siamo un po' lontani, probabilmente non decenni, possiamo immaginare che fra una decina di anni ci siano droni soprattutto per le forze dell'ordine che controllino il territorio, che facciano magari la multa laddove c'è un divieto di sosta, laddove uno passa con il rosso, oppure in un'altra condizione, che ne so, uno che supera dove c'è la striscia continua. Ecco, queste cose probabilmente avverranno molto velocemente, ma come abbiamo detto stiamo parlando di una realtà ad oggi dove è previsto il pilota e il pilota deve vedere il drone. Si parla di alcune centinaia di metri, quindi non stiamo parlando di distanze molto molto elevate. Non a caso si chiamano mezzi a velivoli a pilotaggio remoto. Questi sono i droni. Insomma, un argomento molto affascinante, molto interessante. Ne riparleremo anche nelle prossime puntate. Magari mandateci suggerimenti di attività particolari che vengono eseguite. Mi è arrivato un messaggio di una sperimentazione che verrà fatta a breve in Africa con alcuni droni che controllano i cinghiali. Con alcuni droni che controllano i rinoceronti nell'ambito di una campagna per la salvaguardia dei rinoceronti, e quei droni sono collegati con antenne LTE, quindi in 4G, per comunicare con i propri strumenti di bordo a terra e per magari mandare immagini, oltre che per ricevere i comandi da terra. Magari anche di questo parleremo nelle prossime puntate. Questo è 2024, prima di chiudere questa puntata ci colleghiamo con Pierangelo Soldavini che ci racconta quello che troveremo domani su Nova, il Sole 24 Ore. Pierangelo, bentornato. Ciao Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parliamo di un argomento abbastanza tradizionale per il lettore del quotidiano Rosa. Parliamo di borse, di mercati finanziari e soprattutto di algoritmi di borsa, di high frequency trading, cioè quei meccanismi di scambi automatizzati che giocano sul piazzamento di ordini sul filo dei milionesimi di secondo, quindi proprio del battito di palpebre, del niente, per arrivare a piazzare ordini sfruttando piccolissime variazioni di prezzo che esistono in quel momento sui mercati, e sono fatti di centesimi di euro o di dollari che però, fatti per ordini ingenti e più volte al giorno, valgono montagne di denaro per gli operatori. C'è tutto un mondo oscuro e per lo più sconosciuto che si muove dietro questi scambi e che andiamo un po' a sviscerare e su quale stanno indagando anche le autorità americane, dall'FBI alla SEC, per capire se si può prefigurare una manipolazione del mercato. Nel paginone invece andiamo a parlare di un argomento che è un po' di interesse per tutti e che è una delle preoccupazioni del governo Renzi, che ha annunciato un investimento prioritario sulle scuole, sulla ricostruzione e l'edificazione di nuove scuole. Parliamo proprio di scuola 2.0, ma non dal punto di vista della scuola digitale, ma di come la tecnologia sta cambiando addirittura la forma delle classi, per cui non avremo più in futuro quella classe cui noi siamo abituati, fatta di una cattedra, di un insegnante e di studenti che sono in banchi fissi per file o a ferro di cavallo nella classe, ma comunque con un ordine rigido, ma avremo una classe assolutamente flessibile, una classe liquida, potremmo dire, dove il professore si muove all'interno di varie isole e gli studenti si aggregano a seconda dei compiti, delle cose che devono fare tra la lavagna interattiva, il proiettore multimediale, la postazione web, addirittura si parla di postazioni di studio individuale al di fuori della classe, insomma un disordine che a qualcuno fa paura, ma a chi sta sperimentando in Italia piace molto e soprattutto sta guadagnando consensi anche tra gli studenti e tra gli stessi genitori, che poi alla fine sono d'accordo su quello che vanno a fare i loro ragazzi. Bene, ringraziamo Pierangelo Soldavini, buon lavoro, questa è 2024, chiudiamo questa puntata del nostro programma, vi ricordo che tra poco sarà disponibile in versione podcast. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate scrivendoci, dico ci trovate nel senso che oltre a me mi aiuta Anita Panizza durante la settimana, scrivendoci a 2024@radio24.it. Torniamo naturalmente anche la prossima settimana, sempre il sabato tra le 15 e le 16, nella replica notturna della domenica, ma che è poi lunedì, perché nella notte tra domenica e lunedì andiamo in replica dopo le notizie di GR24 della mezzanotte. Grazie ancora per la vostra attenzione e un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.